lo so che lei lo vuole. Noi in macchina non abbiamo le pistole, davanti alle guardie fra faile e capriole. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Siamo solo un gruppo di ragazzi soli, una scarpa e un paio di tatuaggi nuovi. Se qua non ci vivi, frate, qua ci muori. Sono in tour tutto l'anno, mamma non la vedo. Sono in tour tutto l'anno, casa non l'arredo. Non pensarci mai, questo è il mio segreto. Fumarne una bro per ogni lettera dell'alfabeto. Pensavano volessi fare politica, santo cielo se la situazione è critica. Sto in hotel che sto svuotando il minibar, e quasi da sei mesi in classifica. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Per favore altri gamberi da soli. No, non faccio le foto se sto mangiando. Per favore puoi indicarmi i tuoi genitori. Non dormo nello stesso letto due volte. No, mai. Quindi se ti va resa stanotte, ma dopo vai. Ne fumiamo tante perché non ci piace l'odore dell'aria. Il mio amico dal nord a sud sui treni profuma l'Italia. Tanto qua da sempre danno le medaglie a chi sbaglia. Ogni tre mesi pago più tasse di un'antiquaria. Però lei non vuole te.